Ad Adria, in provincia di Rovigo, muoiono 3 operai per le esalazioni di acido solforico in azienda. Un altro sarebbe molto grave. Nuovo proclama di ISIS: uccidete tutti i miscredenti in qualunque modo. Sono 130.000 i profughi curdi fuggiti dalla Siria ed entrati in Turchia. Resalto lo scontro nel PD sull'articolo 18, e ne arriva un documento della minoranza del partito, Confindustria. L'abolizione sarebbe un segnale forte. A Roma nella notte, nuova aggressione ad un autobus. Un gruppo di stranieri ha lanciato pietre contro il mezzo, anche in questo caso l'autista era una donna. Il capo ultra Gennaro De Tommaso, meglio noto come Jenny Acarogna, è stato arrestato per gli incidenti della finale di Coppa Italia, contestata anche la maglietta con scritto Speziale Libero. Qua non c'è lavoro e un comune della provincia di Cagliari paga agli under 50 il trasferimento all'estero. Ne parleremo con il sindaco. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il numero per intervenire durante la trasmissione, come sempre, è il 349-238-6666 via SMS. C'è la nostra pagina Facebook. C'è il nostro indirizzo email, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalla cronaca, però, dalle 3 vittime sul lavoro di questa mattina, 3 operai. Ci colleghiamo con il sindaco di Adria, Massimo Barbugliani. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Che si trova sul luogo dove i fatti sono avvenuti. Ci può dare innanzitutto un quadro della situazione? Allora, ci sono purtroppo 3 vittime, uno un ferito in grave condizioni e un vigile del fuoco che però se la caverà molto velocemente, insomma. Tutto è successo questa mattina nell'azienda Coimpo di Caemo, è una piccola frazione vicino ad Adria. E a seguito di una nube tossica, piccola nube tossica, che seguita a un tipo di lavorazione che gli operai stavano facendo, insomma. Ci sono altre persone che si sono accorte del fatto, per fortuna si sono allontanate immediatamente e hanno avuto così la fortuna di evitare la stessa sorte. I 3 operai erano di Adria, sindaco? Ci sono 2 operai di Adria e un autotrasportatore che arriva da fuori provincia. Com'è la situazione adesso là? Adesso naturalmente è tutto chiuso, ci sono le autorità che stanno facendo i rilievi per capire, però ormai sembra che sia proprio stato dovuto a questo tipo di lavorazione che ha prodotto l'acido solforico, che è micidiale, e purtroppo i tre ragazzi che hanno circa 40 anni, che erano vicini alla vasca, hanno avuto un triste epilogo. Che lei sappia, fatti di questo genere in quella stessa azienda non erano mai successi in passato? È un'azienda che ha 15 dipendenti circa, opera da circa 20 anni, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, anche perché è continuamente monitorata dall'ARPA, perciò diciamo che è un impianto altamente tecnologico e non ci sono mai stati problemi con questa azienda. Grazie a Massimo Barbugliani, sindaco di Adria, anche per averci aggiornato sulla situazione. Naturalmente quando avremo altre notizie ve le daremo. E noi passiamo all'estero a parlare di ISIS, che ha lanciato un nuovo e terrificante messaggio, questa volta tramite Twitter. Uccidete i miscredenti in qualunque modo e attaccate i civili. Nell'ultimo appello lanciato dal portavoce dell'ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, i jihadisti dello Stato Islamico si rivolgono a tutti i sostenitori del gruppo, invitandoli ad attaccare i paesi che sostengono le operazioni militari di Stati Uniti e Francia in Iraq. Se potete uccidere un miscredente americano e europeo, uccidetelo in qualunque modo possibile e immaginabile, dice nel lungo messaggio audio pubblicato su Twitter il portavoce dello Stato Islamico. Una nuova chiamata alle armi diretta a tutti i militanti e i sostenitori dell'ISIS, in particolare residenti in America e in Europa. Una diretta minaccia ai cittadini francesi, canadesi e statunitensi. In Turchia intanto continuano ad arrivare i profughi. Secondo il vice primo ministro Numan Kurtulmus, sarebbero 130.000 i curdi dal confine siriano, mentre fonti ONU riferiscono di 104.000 esuli. La frontiera tra Siria e Turchia è stata investita da un afflusso straordinario a partire da venerdì, quando il governo di Ankara ha deciso di riaprire il confine sudorientale. Decisione revocata già da questa mattina in seguito agli scontri di ieri tra polizia di frontiera e manifestanti curdo-turchi. Un provvedimento che costringe migliaia di civili a rimanere bloccati in territorio siriano in attesa della riapertura del confine. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. E restiamo all'estero per parlare di Ebola. In questi giorni, in queste settimane, vi abbiamo dato sempre qualche notizia sparsa sulla situazione, necessariamente perché gli aggiornamenti arrivano da vari paesi. Oggi cerchiamo di fare un punto. Da quando quella di Ebola è stata dichiarata ufficialmente una epidemia, 6 mesi fa, le vittime, per quel che si è riusciti a contarle, sono state oltre 2.600, gli infettati 5.000. In Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria e Senegal, i paesi colpiti fino ad oggi, si contano 700 nuovi casi a settimana. L'OMS, la proclamata emergenza pubblica internazionale, l'ONU la settimana scorsa ha dato il via libera a una missione di emergenza, la prima di questo tipo, che avrà sede in Ghana. Per il 25 settembre il segretario generale dell'ONU ha anche convocato un vertice dei capi di Stato, ma per il Parlamento europeo sono azioni tardive. Una risoluzione bipartisan, approvata in sessione plenaria, denuncia come la comunità internazionale abbia finora sottovalutato l'epidemia, si legge, e tardato a elaborare una risposta. Ora il Consiglio di sicurezza deve pensare a inviare risorse di difesa militari e civili, concludono i parlamentari. Dobbiamo lavorare di più in Africa, ha detto oggi il ministro Lorenzin, che a Milano sta affrontando anche l'emergenza Ebola nell'incontro con i ministri della salute europei. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Medici Senza Frontiere è una delle ONG che è entrata in azione contro l'Ebola fin dai primi giorni dell'epidemia. Ha trattato circa il 60% dei casi registrati. In questi giorni sta raccogliendo fondi per continuare il proprio lavoro. Si può donare con un SMS al 45507. La situazione è drammatica, dice Roberta Petrucci, medico appena rientrato in Italia dalla Liberia. L'ha intervistata sempre la nostra Laura Bettini. Il rischio più grosso ovviamente all'interno dei paesi in cui l'epidemia è già in corso è che tutta la popolazione in un modo o nell'altro venga colpita. C'è il rischio ovviamente che l'epidemia si allarghi ai paesi confinanti. Per quel che riguarda l'Europa o altri continenti, il rischio di epidemia è praticamente zero. Gli immigrati che arrivano in Italia bisogna ricordare che spesso arrivano dopo mesi, a volte anni di viaggio. Nessuna persona con l'Ebola potrebbe affrontare un viaggio tale da arrivare in Italia dal nord dell'Africa. Ma con le medicine e le cure che sono disponibili al momento si possono guarire i pazienti? Il 40-50% dei pazienti escono vivi, curati. E questo è fondamentale perché è vero che si sta parlando di vaccino, si sta parlando di terapie sperimentali, eccetera. Non è sicuramente a questo che possiamo affidarci per controllare l'epidemia. Perché talvolta vengono presi di mira dalle popolazioni locali gli operatori sanitari? In alcune comunità si pensa addirittura che la malattia non esista. Che siano i medici, gli infermieri o le persone che vanno per curare la malattia a portare la malattia stessa. Quindi l'educazione della popolazione è una delle componenti fondamentali. Siamo alla politica, con lo scontro all'interno del Partito Democratico sulla riforma del lavoro e l'articolo 18. Partiamo proprio dal punto politico con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Un partito, il Partito Democratico, sempre più spaccato in un tema cruciale per la sinistra, divisioni che addirittura potrebbero non escludere un voto anticipato. Domani si riunisce una minoranza PD, sarebbe in arrivo anche un documento, ma la maggioranza avverte nessun diktat o minacce di referendum, lo dice Lorenzo Guerini e Deborah Serracchiani, per i quali parlare di scissioni è da irresponsabili. Non si usi il tema del lavoro come ariete per cambiare i rapporti interni al PD. Rincara la dose Pina Picerno, europarlamentare che se la prende con l'ex segretario per Luigi Bersani, vuole indebolire la ditta. Spero che la polemica sull'articolo 18 non diventi strumento per regolare conti in sospeso. Dall'altra parte parla Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera, che avverte sulla delega al lavoro va rifiutato il soccorso azzurro. È chiaro che se fossero determinanti i voti di Forza Italia ci sarebbero delle conseguenze politiche. Per Stefano Fassina Renzi indica nemici perché è in grave difficoltà sulla legge di stabilità. Il rischio del voto a primavera quindi si fa concreto. Dalle altre forze politiche Beppe Grillo accusa Renzi di essere diventato berlusconiano, mentre Matteo Salvini Lega dice che l'articolo 18 è semplicemente un teatrino tra Renzi e Camusso. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e anche di questo si è parlato, uno degli argomenti toccati quantomeno a margine dell'apertura di Cersaie, il salone internazionale della ceramica, con il presidente di Confindustria Squinzi e la ministra Boschi. C'è là la nostra inviata Valeria De Rosa che sta seguendo i lavori. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori, e come dicevi apertura affidata proprio al presidente di Confindustria Squinzi, al ministro per le riforme Boschi, preceduti dalle polemiche legate all'articolo 18, e poi del tema si è parlato anche nel corso del convegno inaugurale. La Boschi ha riaffermato che le riforme andranno avanti, che nel PD la discussione è sicuramente accesa, ma che poi si marcerà tutti uniti. Il Jobs Act arriverà in prima lettura al Senato prima della legge di stabilità, e questo è quanto ha riferito il ministro sull'articolo 18. È tornato anche il presidente Squinzi, il quale ha dichiarato che sarebbe un segnale forte, anche se non è una questione fondamentale, ma ascoltiamolo. Io ritengo che un'abolizione dell'articolo 18 con delle forme comunque di tutela, perché è chiaro che quando ci sono delle discriminazioni tutti siamo d'accordo che non si deve licenziare, vorrei ricordare che gli imprenditori non si divertono a licenziare i propri dipendenti, specialmente quelli che fanno il loro dovere e quelli bravi, insomma, quindi è un falso problema. Squinzi ha detto che sicuramente la visione di Renzi è assolutamente condivisibile sull'articolo 18 e il mercato del lavoro in generale, anche se poi il presidente di Confindustria ha sottolineato come sia proprio necessaria una riforma del mercato del lavoro molto molto profonda, e poi ha rincarato le richieste degli imprenditori, quindi le infrastrutture, gli investimenti in ricerca e sviluppo, la riforma fiscale, il costo dell'energia e la burocrazia, tutti punti fondamentali per le imprese. Qui da Bologna è tutto. E grazie alla nostra Valeria De Rosa. Intanto ci sono i dati di oggi sul fatturato dell'industria, che a luglio torna in calo scendendo dell'1% su giugno, con ribassi sia sul mercato interno sia in misura maggiore sull'estero. Su base annua la flessione, la più marcata da 9 mesi, è dell'1,3%. In calo anche gli ordinativi, in luglio un meno 1,5%, il terzo ribasso consecutivo mensile. Una vicenda sta scuotendo, come sapete, il mondo dell'opera italiano, e non solo, perché anche in questo caso si parla, se vogliamo, di rapporti con i sindacati. Riccardo Muti, lo sapete, ha deciso di lasciare la guida dell'opera. Non ci sono le condizioni per garantire la serenità che mi è necessaria. Così Riccardo Muti ha siglato il suo addio all'Opera di Roma, comunicando di non voler più dirigere la Ida e le Nozze di Figaro, entrambe in cartellone nella stagione che sta per aprirsi. Motivo? Il perdurare delle problematiche emerse negli ultimi tempi. Ed è chiaro il riferimento alle continue proteste dei sindacati interni, in particolare quelle dei lavoratori aderenti a CGIL e FIALS, che influenzano l'orchestra. Una rinuncia che pesa ancora di più ora che il sovrintendente Fuortes aveva appena incassato il suo sì al piano industriale, anche questo contestatissimo da una parte dei sindacati. Tutti comunque, proprio a partire dalle sigle sindacali, sperano in un ripensamento del maestro Muti, che ritengono una risorsa irrinunciabile per l'Opera di Roma. Alberto Manzini, segretario generale SLC CGIL del Lazio. Noi crediamo assolutamente che il maestro debba ripensarci, perché una direzione musicale come la sua è una direzione unica a livello mondiale, e noi faremo del tutto perché ci possa ripensare. Non vi ritenete responsabili? No, minimamente, ma su questo siamo disposti a confronti in streaming, visto che vanno di moda, con la direzione del teatro e anche col sindaco di Roma, per dimostrare la strumentalità di quello che ci stanno dicendo. La decisione di Muti sembra però irrevocabile. Il maestro ha già detto infatti che d'ora in poi, quando sarà in Italia, si dedicherà ai giovani dell'orchestra Cherubini, da lui fondata nel 2004. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo a Roma, ma per passare alla cronaca, dopo l'aggressione all'autista di un autobus da parte di un gruppo di immigrati, un altro episodio ieri sera, sentiamo. Due assalti in meno di 24 ore, per la seconda notte consecutiva anche ieri un autobus del trasporto pubblico della capitale è stato bersagliato da un lancio di pietre a Corcolle, estrema periferia est. Protagonisti delle violenze, alcuni immigrati ubriachi, una quarantina. In entrambi i casi erano delle donne a guidare i mezzi pubblici delle linee 042 e 508. L'autista, vittima del primo assalto, è rimasta ferita in modo leggero, ma è stata comunque ricoverata in ospedale. Illesa invece la seconda, soccorsa da alcuni abitanti della zona che hanno anche messo in fuga gli aggressori. Proprio ieri, dopo il primo assalto, molti residenti di Corcolle erano scesi in strada per protestare contro le condizioni di degrado nelle quali versa il quartiere. Per alcune ore nella zona si sarebbe scatenata anche una sorta sorta di caccia all'uomo, della quale avrebbero fatto le spese alcuni immigrati, in tre sarebbero stati aggrediti, ma non avrebbero poi sporto denuncia. Dopo i due assalti, a protestare sono anche i sindacati del trasporto pubblico, mentre il sindaco Marino, condannate le violenze, ha chiesto di fare piena luce su quanto accaduto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E più avanti ne parleremo con uno dei sindacalisti del trasporto pubblico locale romano. Allora, mi ha già raggiunto in studio Carlo Genta per parlare di calcio del campionato di ieri, ma prima ancora abbiamo la cronaca di quello che succede fuori e talvolta anche dentro gli stadi, ossia l'arresto dell'ormai celeberrimo purtroppo Jennie Carogna. Concorso in resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, invasione di campo durante manifestazioni sportive, esposizione di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce. Sono questi i reati che hanno portato all'arresto di Gennaro De Tommaso, noto ai più come Jennie Carogna, protagonista il 3 maggio scorso degli scontri tra tifoseria e polizia che hanno caratterizzato il prepartita della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, in cui perse la vita il giovane Ciro Esposito. In quell'occasione il capultrà è stato immortalato sugli spalti dell'Olimpico mentre mediava tra tifoseria e forze dell'ordine, indossando una maglietta con la scritta Speziale Libero, in riferimento all'ultrà che nel 2007 uccise l'ispettore Raciti, il capo della Digos di Roma, Diego Parente. Siamo andati poi a scavare su quelle che erano le singole responsabilità rispetto a quello che era successo. Ovviamente capo di tutti c'era De Tommaso e diciamo la visione complessiva di video permette chiaramente di stabilire la sua leadership, il suo comando e quindi la sua responsabilità come istigatore. È lui che aizza i tifosi anche in quello che è il lancio dei bengala. De Tommaso è stato raggiunto insieme ad altri quattro compagni da un'ordinanza di custodia cautelare, al momento è ai domiciliari. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ciao Carlo Genta. Ciao, ecco. Simone, buongiorno a tutti. Eccoci qua, due squadre in testa, le stesse dell'anno scorso. Strano. Oggi volevo parlare per la verità di Aurora, la nonna di Florenzi, che è stata la protagonista. Scena, ma che bella scena quella. La protagonista più interessante del weekend insieme a Tevez con il ciuccio del bambino in bocca, che penso che se l'è portato dietro per 70 minuti di partita e poi è riuscito in qualche modo a trovarlo. Vabbè. No, comunque, al di là di questi temi collaterali, una giornata, tra l'altro non dimentichiamo che c'è l'infrasettimanale, quindi si torna in campo a stretto giro di posta, che ha detto che Juventus e Roma in questo momento sono irrintracciabili per tutte le altre. Il Milan ha giocato una partita deludente sabato sera, peccato perché poteva, sull'onda dell'entusiasmo, permettersi forse un po' più di coraggio. La vera notizia è il Napoli, secondo me, perché ha la seconda sconfitta in tre partite, e con Benitez che sembra aver perso davvero la maniglia su questa squadra. Quindi Napoli grande indiziato, poi c'è stata una buona vittoria della Fiorentina su un campo difficile come quello di Bergamo, e ieri sera l'Inter che insomma non è stata brillantissima, che può lamentarsi e si lamenterà ancora per qualche episodio arbitrale sfavorevole come il gol annullato ad Icardi, però tutto sommato sta crescendo un po' a strappi, quindi è ancora, diciamo, ancora in fase di crescita. È certamente una squadra solida, potenzialmente è una squadra interessante, una squadra da corsa per un terzo posto per il quale al momento non ci sono grandissime candidate. In questo momento c'è il solito sorprendente e straordinario Verona al terzo posto in classifica da solo, però insomma sono solo i primi exit poll dopo tre giornate di campionato. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ad Adria, in provincia di Rovigo, muoiono tre operai per le esalazioni di acido solforico. Due di loro avrebbero perso la vita cercando di salvare un terzo. Le forze governative ucraine, notizia di poco fa, hanno iniziato il ritiro delle armi pesanti, inclusa l'artiglieria, a 15 km dalla zona occupata dai separatisti, come previsto dall'accordo di Minsk del 19 settembre. C'è un nuovo proclama di ISIS: uccidete tutti i miscredenti, in qualunque modo. È stato lo scontro nel PD sull'articolo 18, in arrivo per domani probabilmente un documento della minoranza del partito. A Roma nella notte, nuova aggressione ad un autobus, un gruppo di stranieri ha lanciato pietre contro il mezzo, anche in questo caso l'autista era una donna. Filippo Taddei, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, si trova una mediazione con la minoranza del partito sull'articolo 18 oppure no? Si trova una mediazione sulla riforma del mercato del lavoro, che mi sembra più importante. E che tipo di mediazione si può trovare? Insomma, sai, è difficile difficile fare mediazioni prima di conoscere le posizioni in campo. E in questo momento noi vogliamo raccogliere tutte le proposte, i punti di vista, ci sarà poi una sintesi che pensiamo sia alta, però con un obiettivo molto chiaro: il mercato del lavoro italiano, così come è discriminante oggi e così come è iniquo e inefficiente oggi, non ci dovrà più essere. Quindi se riusciamo a realizzare questo, possiamo essere disposti a tutto, ma non dimentichiamo, la prospettiva è complessiva, si parla di ammortizzatori sociali, formazione dei lavoratori e cercare di favorire il lavoro stabile, che è l'unico lavoro che crea competenze, professionalità e capitale umano. Se si parla di questo, ci siamo e ci si confronta con tutti; se si parla di altro, ci siamo molto di meno. Lei da economista, no? prestato alla politica, come legge questo scontro? Come uno scontro politico essenzialmente, perché mi sembra di intuire questo dalle sue parole. Ma le confesso che è un po' avvilente. Il paese merita un dibattito più, anzi non un dibattito, merita una discussione più alta di questo. Infatti io sono un po' sorpreso di fronte a questo tentativo di disingegnerizzare, cioè di scomporre quello che è un progetto organico e complessivo per cambiare il nostro mercato del lavoro in un derby su oggi sarà l'articolo 18, domani non lo so su cosa sarà. Veramente cerchiamo di fare di più. Per parte mia, come responsabile economico e lavoro del PD, cercherò di favorire una discussione che sia più possibile chiara, ma che poi porti a una posizione, e lunedì siamo in direzione per parlare esattamente di questo. Senta una cosa, lei ha parlato del fatto che si sta ragionando naturalmente sul sussidio di disoccupazione universale, un paio di miliardi se non sbaglio ci vogliono, no? Dunque, diciamo che il numero preciso è ancora presto per dirlo, ma quello che stiamo cercando di fare è una riforma del mercato del lavoro che naturalmente abbia come obiettivo quello di conferire più risorse per estendere le tutele e i diritti. Il nostro obiettivo è portare i diritti e tutele ai lavoratori che lavoratori sono, ma oggi queste tutele non hanno e quindi danno diritto ad averle. Ma uno stanziamento, diceva, mi sembra di capire, già previsto in legge di stabilità questo per il sussidio di disoccupazione? In questo momento ottenere dei fondi aggiuntivi, risorse aggiuntive, è uno sforzo molto, molto gigantesco, quindi se lo facciamo, lo facciamo perché riteniamo che sia molto importante. Stiamo lavorando in questi giorni, stiamo concludendo il lavoro per quello che riguarda i numeri della legge di stabilità, arriviamo a questa conclusione di questo lavoro e poi saremo in grado di darvi numeri precisi. Comunque sia, volevo dare un senso anche di quelli che sono le risorse, di un orizzonte su quelli che sono gli orizzonti, le risorse aggiuntive necessarie per arrivare a completare, o per meglio dire a aumentare la tutela della disoccupazione. Quindi, come dire, quest'idea di risorse, poi sarà da precisare ulteriormente, sarebbero comunque risorse aggiuntive, no? Perché sa che Fassina dice oggi spero che siano aggiuntive e non le vadano a pescare, per esempio, nel rifinanziamento della cassa integrazione straordinaria, no? Sì, guarda, allora la cassa integrazione straordinaria, come sa, è pagata dalle aziende e quindi lì c'è poco da fare. E quello che noi vogliamo fare è efficientare gli strumenti esistenti, quindi fare in modo, attraverso un monitoraggio accurato, che la cassa integrazione, quella pagata dalle aziende e dai lavoratori, venga spesa il più possibile bene, senza favorire comportamenti strambi da imprese che la utilizzano un po' troppo spesso o imprese che la utilizzano ma non esistono più. Pensiamo alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, che insomma, che sinceramente è difficile anche da spiegare come concetto. E noi siamo disposti quindi, oltre a efficientare l'esistente, di conferire nuove risorse agli strumenti che già esistono, in particolare l'assegno di disoccupazione, insomma la cosiddetta ASPI, ma con un obiettivo molto chiaro: estendere la platea dei beneficiari. Ad oggi noi osserviamo due tipi di discriminazioni: due lavoratori che svolgono mansioni molto simili magari sullo stesso luogo di lavoro, ma vengono trattati in maniera diversa perché hanno contratti diversi, hanno uno più diritti, l'altro meno diritti, uno viene pagato di più e l'altro di meno. Questa discriminazione va corretta semplificando le strumenti contrattuali, unificandoli e uniformandoli. E poi c'è l'altro problema: questi due lavoratori che già erano trattati diversamente mentre lavoravano, ma perdono magari entrambi il lavoro. O uno riceve giustamente il sostegno di disoccupazione, che è già un trauma, e l'altro magari riceve poco o in alcuni casi nulla. tutto questo non ha senso, soprattutto tutto questo è inaccettabile. Grazie a Filippo Taddei, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, le auguro buona giornata. E, dato che parliamo di lavoro, io saluto Walter Pisceda, che è sindaco di Elmas, siamo in provincia di Cagliari. Buongiorno Pisceda. Buongiorno a voi. È proprio correlato il discorso che stiamo per fare con lei, perché è balzato agli onori delle cronache, perché il comune di fatto finanzia il trasferimento all'estero degli under 50 perché non c'è lavoro, è così? È una lettura, il dato vero, la lettura ufficiale è che noi stiamo facendo un patto con i nostri cittadini, con una fascia di nostri cittadini che ci chiedono di andare fuori e purtroppo hanno il problema di non avere i denari per poterlo fare. Effettivamente stanno andando a cercare lavoro, a noi stanno chiedendo un sostegno e noi lo stiamo facendo all'interno di un programma, non è che prendiamo i soldi e li diamo affinché questi ragazzi vadano via, si tratta di un percorso che parte dall'incontro col nostro Informa Giovani, che farà un'attività di tutoraggio e di sostegno proprio di questi ragazzi. Dopodiché, prima di partire, gli si offrirà la possibilità di fare un corso di inglese, sempre pagato da noi, quindi il primo step è arrivare lì potendo stare in piedi, cioè non avendo il problema della lingua. Li sosteniamo nell'acquisto del biglietto di sola andata e dopodiché, poiché arriveranno lì e ci si augura che trovino un lavoro, ma realisticamente li pagheranno a fine mese, li aiutiamo anche per le prime spese di vita e alloggio. Perché il biglietto di sola andata? Perché speriamo che poi dopo che sono lì trovino un lavoro e siano nelle condizioni quanto prima di pagarsi il biglietto di rientro. Ecco, sindaco, tra l'altro lei è anche consigliere regionale, secondo più votato del PD alle regionali, primo più votato del PD alle regionali. Mi scrive un ascoltatore, in questo caso via Twitter, dice: siamo nel regno del paradosso, cosa la tiene a fare la fascia di sindaco se manda via la gente? Sì, capisco queste polemiche, però dico ben vengano perché ci dà l'occasione di parlarne. Io da sindaco ricevo quotidianamente persone, ragazzi che vengono e dicono: sindaco Walter, io vorrei andare fuori per cercarmi un lavoro perché qui non ne trovo. Dopo che hanno fatto tutte le cose che si può fare in un comune, io non è che gli posso dare la pacca sulla spalla e dirgli: ma no, stai qui, continua a stare seduto al bar a bere birra, continua a startene nelle strade a non far nulla. Io devo intervenire, per cui se mi viene chiesto in un progetto di vita di dare una mano a qualcuno di questi per andare fuori, ma perché non lo devo fare? D'altronde sono i loro soldi, non è che sto investendo soldi miei, sono i soldi delle tasse dei cittadini che stiamo investendo, quindi se mi viene chiesto questo servizio io erogo questo servizio e non è una rinuncia. Adesso questo discorso della fascia tricolore del sindaco che dovrebbe far di tutto per far rimanere la gente qua, ma mi spiega perché? Io ad esempio mi sento cittadino d'Europa, non mi sento necessariamente, non sento i confini. Però è vero anche sì, sindaco, in questo modo priva il suo paese, la sua città di quelle che in fondo sono le forze che potrebbero essere più attive, più stimolanti. Sarebbe vero se fosse l'unico strumento che abbiamo messo in piedi, ma le faccio un esempio: prima di questo è l'ultimo, ma prima di questo abbiamo fatto i tirocini formativi, cioè paghiamo noi 600 euro al mese, cioè 500 euro al mese per 6 mesi alle aziende per formare e avviare a un mestiere dei ragazzi. L'abbiamo fatto per 30 ragazzi. Appena abbiamo fatto il bando si sono iscritti in 130, li abbiamo messi dentro tutti, abbiamo attivato i cantieri di lavoro, abbiamo fatto inserimenti anche in municipio, cioè non è che questa è l'unica misura che abbiamo fatto a sostegno dei nostri ragazzi. Anzi, è l'ultima perché l'abbiamo fatta qualche giorno fa, prima abbiamo fatto tutti gli altri step, ma purtroppo ci sono ragazzi che non sono nelle condizioni ideali per poter stare sul mercato del lavoro, ci sono ragazzi che non hanno scolarizzazione. Che cosa devono fare? Sai che qualcuno, non dovrei dirle queste cose, ma è bene che si sappia, perché fare il mestiere di sindaco è difficile e molte sono le cose che non possiamo dire. Qualcuno, siamo arrivati al paradosso, che mi ha detto: Walter, io sarei costretto ad andare a rubare. Allora, grazie a Walter Piscedda, sindaco di Elmas, provincia di Cagliari, per averci chiarito insomma questa cosa che ci aveva incuriosito molto e mi ho trovato interessante. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, poi dopo nella seconda parte della trasmissione ci ritroveremo con Micaela Quintavalle, presidente di un sindacato dell'ATAC, per parlare di due aggressioni nel giro di 24 ore da parte di stranieri alla periferia della capitale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono 4 adesso gli operai morti ad Adria in provincia di Rovigo per le esalazioni di acido solforico in un'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. Un nuovo programma di ISIS, uccidete tutti i miscredenti. Resta alto lo scontro nel PD sull'articolo 18, ne arriva un documento della minoranza del partito, dibattito avvilente, ci ha detto poco fa il responsabile economico del PD. A Roma nella notte, nuova aggressione ad un autobus, un gruppo di stranieri ha lanciato pietre contro il mezzo, alla guida c'era una donna. Il capoltraggio è Nero De Tommaso, meglio noto come Jenny a Carogna, è stato arrestato per gli incidenti della finale di Coppa Italia. La borsa. Borse in diretta. Negative, meno 0,83% il FTSE MIB, meno 0,81% il FTSE All Share, peggio del resto d'Europa perché Francoforte è in perfetto pareggio, anzi appena sopra la parità. Parigi è in calo dello 0,09%, c'è Londra che è un po' più negativa, meno 0,67%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, ciao e buongiorno. Buongiorno. Come mai va male Milano e le altre invece vanno meglio? Sì, come dicevi, sia Milano che anche Londra sono nettamente più deboli delle altre piazze europee che sono sostanzialmente sulla parità, lo sono per motivi completamente diversi. Sul listino londinese pesa il KO dei supermercati di Tesco che cedono oltre il 7% dopo l'annuncio che è stato sovrastimato l'utile del primo semestre di ben 250 milioni di sterline. Su Piazza Affari pesa invece lo stacco cedola di Eni e di ST Microelectronics. Eni ha distribuito un acconto sul dividendo di 56 centesimi, ST il dividendo trimestrale di 10 centesimi, perdono rispettivamente il 2,7 e il 3,4%. Quindi ragioni eminentemente tecniche, tra i titoli positivi invece c'è Fiat che guadagna l'1,93%, la Popolare di Milano lo 0,79, mezzo punto percentuale per Telecom Italia. Grazie Isabella e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Andiamo a Corcolle, periferia di Roma. C'è stata un'altra aggressione ad un'altra autista dell'ATAC, che è l'azienda dei trasporti locali della capitale. È scattato l'allarme sicurezza, è stata accerchiata e minacciata di stupro. Una nota all'ascoltatore che parla di ipocrisia, dicendo che abbiamo detto che sono stati degli stranieri, perché dice politicamente corretto, non è politicamente corretto, stranieri è un termine neutro. Abbiamo detto stranieri perché in italiano si dice questo sono. Micaela Quintavalle, presidente del sindacato Cambiamenti M410 e autista dell'ATAC, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, quindi due aggressioni in 24 ore, l'altra è stata ieri sera, ci può raccontare allora, qualcosa di più? In realtà sono state 4 gravissime aggressioni in 2 settimane, la prima 2 settimane fa ad una collega alle 5.30 di mattina in via Longoni, dove una transessuale con una bottiglia ha minacciato di sfregiare la faccia della collega. Mercoledì scorso un collega uomo è stato minacciato di morte da alcuni tifosi romanisti durante la partita solo perché aveva una cadenza napoletana. Sabato sera abbiamo avuto il caso di Elisa, duplice aggressione da parte di 30 persone, vero, in questo caso erano straniere, erano degli immigrati, ma non ne facciamo un caso razziale perché come vi ho fatto notare, insomma, è proprio una problematica sociale. L'hanno minacciata di violenza carnale, l'hanno minacciata proprio di morte. E poi abbiamo avuto l'ultimo caso ieri sera, sempre nella zona di Corcolle, una nostra collega, l'autobus è stato preso a sassate, sono esasperati gli utenti, anche se poi qui andiamo nella delinquenza più totale, ma diciamo che se l'ATAC mettesse più autisti, mettesse più autobus, avessimo una tutela maggiore nelle linee più pericolose, quindi delle cabine blindate, delle vetture come la nuova sede rossa, tutto questo non accadrebbe. I cittadini sono la maggior parte persone oneste, serve la sicurezza anche per loro, e questo governo e questa azienda sembra fregarsene di brutto. Per non parlare dei sindacati confederali, c'è un silenzio assordante in questa vicenda. Il FAST ha scritto un comunicato, noi di Cambiamento 410 abbiamo portato la problematica a livello nazionale. Sia nel caso di Elisa, l'autista, la sua collega della quale abbiamo sentito il racconto nei giorni scorsi, sia nel caso di quella di ieri sera, ci sono state minacce anche di violenza sessuale? In Elisa sì, ad Elisa è stata minacciata proprio di essere stuprata, le hanno detto se riusciamo ad entrare dentro ti violentiamo, ti ammazziamo. Io ho visto Elisa fino a mezz'ora fa, sono passate 48 ore, ancora è proprio sconvoltissima. Le hanno fatto le analisi in ospedale in questi giorni, la era talmente tanto agitata che la diagnosi, i medici hanno creduto addirittura di trovare gli enzimi cardiaci nel sangue, cioè temevano un infarto acuto del miocardio. Per fortuna fisicamente sta bene, psichicamente non so quanto le ci vorrà per riprendere un attimino in mano la situazione. La situazione nel quartiere, da quello che le è stato raccontato, immagino che adesso sia di tensione elevatissima. Allora, ieri sera sono scesi in difesa delle nostre colleghe autoferrotranviere i cittadini, quindi questo l'ho apprezzato tantissimo. Quello che non ho apprezzato è che invece poi la situazione sia degenerata nel pestaggio di 5 immigrati, questo non lo condivido affatto. Io penso che si debbano fare le proteste, si debba lottare ferocemente, ma nel massimo rispetto delle regole. Allora, grazie Micaela Quintavalle, autista dell'ATAC, presidente del sindacato Cambiamenti M410, che sta evidentemente anche assistendo queste e aiutando e supportando queste persone che sono state aggredite. Ci torneremo su questa vicenda. Intanto andiamo all'inchiesta di Daniele Biacchessi, che è dedicata oggi al centrodestra. Non sarà lui il candidato del centrodestra alle eventuali prossime elezioni politiche, perché, dice, ora bisogna rinnovare, ma certamente si impegnerà a costruire la futura leadership di Forza Italia. Silvio Berlusconi è ancora in campo e la nuova iniziativa parte dalla scuola di formazione politica di Sirmione, una sorta di frattocchie del centrodestra. In sostanza, Berlusconi intende selezionare di persona la nuova classe dirigente di Forza Italia sulla base di quello che definisce il richiamo del 1994 e parte da una considerazione. 20 anni di battaglie politiche ti tolgono l'entusiasmo, la passione, c'è un po' di stanchezza e Forza Italia ha bisogno di idee nuove, di tornare, dice Berlusconi, allo spirito degli inizi. Dunque Berlusconi crede nei giovani amministratori locali, quelli che tutti i giorni si cimentano nella gestione dei beni pubblici, e per questo lancia un'immagine che è una metafora, un vecchietto, la bandiera del partito, che lavora insieme ad un esercito di giovani forze decise a combattere per la libertà, come ha detto ieri a Sirmione. Forza Italia guarda con interesse alla Lega di Matteo Salvini, spera ancora in un'alleanza, anche solo elettorale, con l'NCD di Angelino Alfano, e preme perché il premier Matteo Renzi e il suo governo vada avanti sulla riforma della giustizia del mercato del lavoro. Anzi, proprio sul mercato del lavoro il suo fedelissimo Paolo Romani si lascia andare ad un ragionamento: se Renzi andasse avanti sull'articolo 18 il PD potrebbe spaccarsi e in soccorso in Parlamento potrebbero arrivare i voti di Forza Italia, come dire, potrebbe nascere una nuova maggioranza. Ma al di là delle alchimie politiche, Forza Italia resta invece distante in tema di riforme istituzionali, i cui risultati, secondo Berlusconi, non sono quelli da lui auspicati. E c'è una notizia che riguarda un senatore di Forza Italia, una notizia di cronaca giudiziaria appena battuta dalle agenzie. Denis Verdini è stato rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Roma per la vicenda legata ad una plusvalenza di 18 milioni di euro nella compravendita di un immobile in via della Stamperia nel centro della capitale. Lui è accusato di finanziamento illecito. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Effetto Giorno at radio24.it per scriverci, nella nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. I ringraziamenti: Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, ovviamente tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno e tra poco con GR24.